Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Un primo cadavere all'esterno del capannone bruciato, un operaio in pigiama, i piedi scalzi, l'unico ad aver tentato la fuga dal rogo, invano. Avanzando all'interno, altri che non hanno avuto neppure quella speranza. Ecco un secondo corpo carbonizzato, il braccio fuori dalla finestra, fermato da una grata che lo ha imprigionato tra le fiamme. Poi un terzo, poi ancora e ancora. Fino a contare 7 morti e 2 feriti gravissimi, quelli accertati finora, tutti cinesi, fra le macerie fumanti della ditta tessile Ye Life di Prato, gestita da cinesi alla periferia della città. Forse non le uniche vittime a giudicare dai resti che il groviglio di legni e metalli anneriti continua a restituire il timore dei pompieri. E pensare che uno dei luoghi comuni più calcati rispetto alle comunità cinesi in Italia, ma da decenni, è la frase «i cinesi non muoiono mai». Sì, perché c'è questa sorta di elemento, non so se sarà reale e leggendario, che in realtà quando muoiono i cinesi scompaiono, li fanno sparire, perché i documenti servono ad alimentare la catena dell'immigrazione clandestina di altri cinesi. Noi spesso abbiamo parlato di cinesi a questa trasmissione, perché i cinesi sono un'entità difficilmente collocabile se non in elementi dell'immaginario a volte molto folcloristici, molto legati da pregiudizi, ma anche perché se ne sa molto poco. Guardate il paradosso. Oggi tutti i giornali parlano di cinesi proprio perché sono cinesi morti, morti anche in maniera atroce. E riviene fuori qualcosa che sembrava appartenere ormai a cronache dette, ridette, digerite. Io penso che da metà degli anni Ottanta che parlo della comunità cinese di Prato in tutte le maniere. E oggi ancora leggo le cronache sui giornali, delle situazioni oltre ogni limite dell'umana sopportazione, gente ammassata in dei capannoni dove le donne partorienti stanno accanto ai gabinetti straboccanti di escrementi umani, i bambini con le stecche d'ombrello come facciamo noi negli anni 50 e l'arco e le frecce vanno a caccia di topi e cose del genere. Ma come può accadere questo contemporaneamente alla percezione dei cinesi come i futuri padroni del mondo? Ieri Beppe Grillo, tra le tante cose che urlava nel suo V-Day, diceva anche: i cinesi hanno comprato questa azienda italiana, ci stanno comprando tutti. È vero, i cinesi comprano i casali in Toscana, comprano le vigne in Sicilia, comprano le grandi aziende, i cinesi si preparano a gestire l'economia mondiale, i cinesi si affacciano ai proprietari di appartamenti con gli scatoloni pieni di denaro cash, comprano tutto, hai una casa da vendere, vendila ai cinesi. E contemporaneamente i cinesi muoiono come animali dentro dei posti, sono ammassati, bruciati vivi. E il sindaco di Prato, questa mattina intervistato a 24 mattina, dice: ma noi facciamo controlli, ne facciamo tante, ma non serve a niente. La comunità cinese è qualcosa di ineffabile, intoccabile. Nemmeno le autorità dell'ambasciata collaborano con noi, anzi i nostri blitz vengono considerati come quasi degli interventi nazisti. Ci fanno fare ma non collaborano, non c'è niente da fare, sembra quasi una realtà ineluttabile. Ci sono migliaia di questi casi. Com'è i cinesi sono percepiti in maniera così antitetica e singolare? Da una parte legati al senso della morte, non muoiono mai o quando ne parliamo perché muoiono in maniera atroce. D'altra parte legata ormai al più percepibile, diffuso e popolare lenimento alle tensioni sessuali. Quante trasmissioni abbiamo fatto sui massaggi cinesi, che ormai è l'elaborazione dell'autoerotismo per mano altrui, per una sorta di soddisfacimento fast food mordi e fuggi popolare. Ormai sono piene le nostre città di saloni di massaggio cinesi. Tutti sanno che lì dentro non si fanno soltanto massaggi, non ci fanno massaggi in zone che vanno oltre il palmo sotto l'ombelico, però fa parte comunque della nostra realtà. Beh, oggi vorrei avere da voi la percezione dei cinesi. Come vedete i cinesi? Come sentite i cinesi? Al di là del luogo comune, al di là delle favole, al di là delle paure, al di là delle concupiscenze. Cosa sono per voi i cinesi? 800240024. I clandestini si stimano intorno alle 20.000 persone presenti, questo è più o meno il numero, forse è anche un numero per difetto più che eccesso. Diciamo che il fenomeno di questo sistema di illegalità è così diffuso che con le forze nostre locali, e tenete presente che noi in 4 anni abbiamo chiuso 1.200 aziende, non una o due, trovando all'interno il 99% degli operai o lavoratori al nero clandestini. Quindi anche la stima sui lavoratori al nero si aggira sui 20.000, sulle 20.000 unità, ecco, forse un dato nazionale che si può che si presenta solo a Prato praticamente. E questo tipo di lavoro, ripeto, questo è l'assessore comunale alla sicurezza di Prato, Aldo Milone, che fa un quadro di quello che è Prato, che era la situazione forse più antica nel nostro paese, ma ormai le comunità cinesi sono espanse ovunque, ovunque ci sono negozi cinesi, ovunque cominciano a trapelare quelle che sono le capillari maniere di occupare il territorio da parte dei cinesi. Professor Daniele Cologna, buongiorno. Buongiorno. Il professor Daniele Cologna, abbiamo già avuto in trasmissione, è un sociologo delle immigrazioni, un sinologo, un esperto di immigrazione cinese in Italia e fondatore dell'agenzia di ricerca sociale Codici di Milano. La domanda mi sembra sin troppo scontata. Come mai esistono ancora queste punte così estreme della percezione del cinese in Italia? Da una parte il cinese che ci sta mangiando l'economia, dall'altra parte il cinese che, come un essere che appartenga a un altro tempo, vive in situazioni totalmente disumane e ci se ne accorge soltanto quando muore carbonizzato. Ah, guardi, da un lato mi verrebbe da risponderle che se dobbiamo parlare della percezione del cinese in Italia si dovrebbe partire da molto lontano. E abbiamo una comunicazione sull'immigrazione cinese che ha sempre privilegiato il dato di folklore o la diceria, come quelle che si citavano prima, o una ricostruzione un po' fantastica della figura del cinese come archetipo dell'inconoscibile. E dall'altro invece abbiamo una normalità, una quotidianità della presenza cinese in Italia, che è la nostra immigrazione più antica, che è fatta di cose spesso molto diverse, è fatta di un quotidiano contatto, perché la maggior parte delle grandi città italiane oggi è disseminata di esercizi commerciali che hanno un contatto diuturno con una popolazione molto ampia, non solo quella autoctona italiana, ma anche tantissimi immigrati di altre nazionalità si servono presso negozi cinesi. E quindi c'è un grande paradosso tra queste due visioni. Continuiamo a ripetere che i cinesi sono quelli meno conosciuti, quando in realtà nessun'altra immigrazione in Italia ha visto tante pubblicazioni su tale fenomeno, cioè ci sono più pubblicazioni accademiche sull'immigrazione cinese che su quella albanese, su quella romena, su quella marocchina, e persino pubblicazioni di carattere divulgativo scritte per esempio da giornalisti, talvolta anche persone molto, molto valide, hanno scritto più sui cinesi che su altri, quindi è paradossale. Ci spieghiamo però questo paradosso, professor Cologna? Perché il paradosso è evidente, che improvvisamente oggi i giornali scoprono che a Prato, nei capannoni, vivono i cinesi in condizioni disumane. Mi dispiace citarmi, ma io da metà degli anni Ottanta che si fanno inchieste su come vivono i cinesi a Prato. E ci si rende conto di questo dato quando accade una tragedia, e tutto il resto, tutto quello che dice lei, la capillare informazione sul perché, per come, per quando, com'è rimane una zona così poco visibile dall'attenzione dei media e dalla necessaria sensibilizzazione generale dell'opinione pubblica? A mio avviso la risposta è resa complicata da almeno tre fattori. Il primo è che parliamo di una minoranza immigrata, e questo complica sempre le cose, perché abbiamo a che fare con un gruppo di persone che intanto sono poche, sono la quarta popolazione immigrata in Italia, ma non sono tanti dal punto di vista della capacità di impatto e di azione. La gran parte di queste persone non parla bene l'italiano, fatica ad apprendere l'italiano in tempi utili e non ha in realtà grande accesso a canali che permettano di farsi valere dal punto di vista, per esempio, della comunicazione in termini sociali e politici. Ma hanno interesse o volontà di entrare in questi canali, o fa parte proprio della fisiologica caratteristica della comunità? No, intanto io non starei molto attento a parlare di caratteristiche fisiologiche attribuendole a delle comunità, nel senso che sono oggetti molto sfuggenti le comunità, e soprattutto non hanno una fisiologia. La cosa, però ci sono comunità più riservate, comunità più evidenti nel loro integrarsi, nel loro mostrarsi. Questo sta nell'occhio di chi guarda, nel senso che nel caso cinese abbiamo appunto i grandi paradossi sono più nel modo in cui si guarda i cinesi che nel modo in cui sono effettivamente i cinesi in Italia, no? Mi verrebbe da dire che, per esempio, di popolazioni del tutto paragonabili come condizioni di sfruttamento in ambito manifatturiero, per esempio, non si parla mai in Italia dell'immigrazione del Bangladesh, che è oggetto di uno sfruttamento feroce. Ne ho parlato quattro giorni fa, li stanno massacrando di botte. È una sana eccezione, le posso dire che non è di dominio pubblico. Però se ne parla quando viene fuori la cronaca del Bangladesh, ci si rende conto che in realtà sono taglieggiati, picchiati, vessati. Sono esattamente come dice lei, appunto, quando c'è l'evento che in qualche modo scatena la curiosità, a volte anche un po' morbosa, allora se ne parla. Ma per esempio delle condizioni spesso disumane del lavoro nella manifattura, in diversi comparti manifatturieri italiani in cui sono presenti i lavoratori immigrati, e quelli cinesi non fanno eccezione, se ne parla davvero da tantissimo. Fermiamoci un attimo, professore. Almeno dagli anni Ottanta. E allora il secondo fattore che le dicevo. No, può fermarsi un secondo, volevo solo dare un attimo, continuiamo poi. La parola a due ascoltatori che hanno chiamato per dare un po' di dibattito, poi riprendiamo con lei. Michele. Sì. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Scusi, io ho acceso da poco e ho pensato di chiamare perché ho una testimonianza, seppure indiretta, nel senso che qualche giorno fa ho partecipato a una riunione di lavoro dove c'era un ingegnere che veniva dalla Cina, ha lavorato a Pechino e ha raccontato delle cose che per noi sono pazzesche. E cioè lui ha fatto un giro per il suo lavoro, eccetera, e ha visto un cantiere dove si faceva una strada enorme, una strada larghissima, e veniva lastricata con dei grossi pezzi di il passato, lo chiamavano, insomma, queste grosse lastre di pietra che vengono messe con una sorta di grosso martello pneumatico che viene per schiacciare queste cose, e sopra il martello, per fare più peso, c'era un uomo seduto che ballava, cioè veniva usato come peso umano per schiacciare di più. Quindi, non per quanto peserà, 70-80 kg. No, ma è proprio le condizioni. Poi di un cinese pesa poco. Stava là sopra, che veniva gli organi interni gli venivano sconquassati. Questa è la sua testimonianza di quello che accade in Cina. Bruno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono di Prato e qui a Prato è tanto, ci sono cinesi, problemi effettivamente esistono. Però perché non ci si domanda perché sono tutti in Italia? Perché un pochino sono in Spagna, ma più che altro sono qui in Italia che ha appena detto esattamente il contrario il professore, che non è uno delle immigrazioni potenti nel nostro paese. Voi no, a Prato ne vedete tanti, è chiaro, perché no, è intensissimo. Non dico che siano pochi, che siano tanti più degli altri, io dico perché gli stanzoni a cucire e a lavorare a nero sono solo in Italia, perché all'estero, in altre nazioni, non glielo fanno fare. Questa è una domanda corrente. Il prodotto di Prato, il prodotto cinese di Prato va in tutta Europa, però viene prodotto tutto qui, perché qui fanno controlli e rimangono fino a se stessi. Esattamente quello che ha detto questa mattina il sindaco Cenni a Radio 24, dice noi controlli li facciamo, ma poi sono come le formiche, riaprono la stessa cosa da un'altra parte. Ci fermiamo un istante, il traffico. Noi lavoriamo e facciamo il nostro dovere. Vogliamo avere gli stessi trattamenti anche dagli altri verso di noi, anche se molta gente ci disprezza e ci dice che noi leviamo il lavoro, però io credo che l'economia italiana che è sostenuta anche da noi. Dicono i cinesi non si fanno conoscere, i cinesi sono una comunità nascosta, perché? Non è vero questa cosa di comunità nascosta, perché noi lavoriamo così perché non vogliamo, cioè tante volte subiamo dei trattamenti negativi sia da... Questo è un ragazzo cinese intervistato in un programma televisivo. E Mauro da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno, sì. Dottore. Velocemente. Senta, allora io ho 62 anni e abitavo a San Dondino quando i primi cinesi sono sbarcati circa 30 anni fa. In tutto questo tempo mi sono reso conto di una cosa, piano piano con il tempo, che il problema, allora innanzitutto loro sono persone cinesi che hanno tanto bisogno, cioè quelli che vengono qua sono vanno aiutati in tutto e per tutto ed hanno veramente bisogno di noi. Però ho notato una cosa molto importante, mi creda, che la politica, solo gli accordi in alto della politica fa in modo tale che ci mettiamo l'uno contro l'altro. Noi siamo contro i cinesi, ma mi rendo conto perché ci sono in alto dei motivi molto importanti che noi non dobbiamo sapere. Vabbè. Perché viene fatto questo tipo di protezione, anche i controlli finti, i controlli a Prato, ripeto, io li ho visti sbarcare a San Donnino ho l'azienda Calenzano. Sono dei controlli, anche il sindaco ha fatto una frase tonda, io le chiamo le frasi tonde, che non ha detto tutto, non ha detto niente, no? Facciamo i controlli che rinascono. È tutto un discorso che c'è un fine politico in alto. Ma diciamo che i controlli saranno stati fatti, non sarebbe accaduto, perché adesso improvvisamente tutti scoprono le situazioni, stanno chiamando imprenditrici che dicono che la colpa è le istituzioni che non controllano, sono senza controllo, dice anche Ivana. Ivana, una battuta soltanto. È vero, sì, in effetti i controlli non vengono fatti verso i cinesi, perché sì, li controllano, dopo due mesi aprono da un'altra parte, ma se lo facciamo noi italiani, noi imprenditori italiani. Ma lei è imprenditrice a Prato, eh? No, io non sono a Prato, ma sono in altre zone. Ma nello stesso settore, nel manifatturiero? Sì, sempre nel settore. Borsa. Allora, io dicevo, perché a noi ci stanno col fiato sul collo e pretendono che dalle tasse ci voltano, non si può fare la produzione a bassi costi come fanno loro? Perché a noi? Lei fa noi la sua domanda. Sì, Ivana, purtroppo il tempo è pochissimo, non sono io che posso rispondere. Do spazio alla sua domanda, il tempo è quello che è. Daniele Cologna, ricordo, sociologo delle migrazioni, sinologo, fondatore dell'agenzia di ricerca sociale Codici di Milano. Vediamo di fare un piccolo punto finale. Oggi nel Corriere della Sera, in prima pagina, leggo questa storia dei 30.000 euro in 3 anni di tormenti che devono raccogliere i cinesi per tornare poi a vivere tranquillamente a casa. Fa anche parte questo degli aspetti leggendari, parte le voci che abbiamo sentito, a cui non possiamo dare risposta in 2 minuti. Però ecco, anche questo fa parte di un alone leggendario o corrisponde in realtà? Vengono per acquistare questo tesoretto per poi riscattarsi la vita? No, messa in questi termini è una panciata senza fondamento. È diverso il discorso del migrante che deve comunque fare i conti con un forte indebitamento nel momento in cui parte, perché se l'emigrazione avviene in maniera clandestina dalla Cina è notoriamente molto costosa. E questo è il vero che c'è dietro a questa narrazione deformata. Quindi lui si guadagna il diritto di rimanere qua in Italia, non di poi tornare in Cina, sennò non avrebbe senso. Il pensiero è quello di riuscire ad avere una chance di lavoro e possibilmente anche in futuro di impresa in Italia, inserendosi in un contesto lavorativo che è ancora per certi aspetti permeabile. Qui vorrei richiamarmi all'intervento di uno dei suoi ascoltatori, che va proprio a nozze con quello che volevo dirle prima. Il secondo fattore che rende così difficile parlare di cinesi in Italia è che costringe gli italiani a parlare di una cosa di cui non vogliono parlare, cioè del fatto che all'interno della manifattura tanto celebrata, che per esempio per quanto ci sia la crisi comunque una certa idea di Made in Italy, ci sono invece delle ampie aree di lavoro totalmente o quasi totalmente fuori dalle regole, e questo da 30 anni, se non da prima. Questa è una cosa che si fa molta fatica a metabolizzare, di distretti manifatturieri in cui si produce in maniera assolutamente fuori dalle norme, perché ci si può appoggiare su una forza lavoro e talvolta anche su una piccola imprenditoria come nel caso, cioè il lavoro sporco lo fanno i cinesi, sono in qualche modo costrette a stare dentro dei parametri di irregolarità che sono fisiologici alla capacità di quella particolare manifattura di restare sul mercato. Allora i casi sono due: o si decide che quella manifattura lì la si deve chiudere tutta, cioè eliminare interi distretti, per esempio chiudere il pronto moda di Prato, si può scegliere di farlo, però bisogna accettare che questa cosa non riguarda solo Prato, ci sono distretti che lavorano sulla pelle delle persone un po' in tutta Italia, e queste persone non sono sempre cinesi. Lei, Daniele Cologna, con questo ha dato parzialmente una risposta del tempo che ho a disposizione alle domande dei nostri ascoltatori. I cinesi fanno lo sporco lavoro, ma dietro lo sporco lavoro molti altri hanno i loro bravi affari. A domani.